Pronto? Accidenti. Funziona anche troppo bene. Cominciamo? Bene. Allora, io sono Salvatore, sono del gruppo Linux di Firenze e partecipo al progetto che Aria Tira come tecnico, diciamo, per quanto riguarda la realizzazione e la progettazione delle centraline dell'aria. Centraline che servono alla misura del PM, ovvero PM è la polvere che c'è nell'aria, la polvere microscopica, molto piccolissima. Infatti si distingue in PM10 e in PM2,5. PM10, tutto quello che è al di sotto di 10 micron è catalogato come PM10, quindi 10 milionesimi di metro. PM2,5, tutto quello che è al di sotto di 2,5 micron. Poi ci sarebbe anche il PM1, ma è di difficilissime misure. Ancora non ci sono tecniche, diciamo, a basso costo per poter ottenere dei dati significativi. Le sorgenti di queste polveri possono essere di qualunque tipo. Chiaramente ci sono quelle naturali, tra cui il vento, il polline, eruzione vulcane, oppure quelle umane, combustione, automobili, camini, riscaldamento, attività di qualunque genere, più o meno traffico, perché con l'usura dei freni, l'usura delle gomme, producono questo particolato. La domanda che viene spontanea, dice, ma fa male? Dicono di sì. Fa male, e fa male nella misura in cui è più sottile, più piccolo, il diametro del pulviscolo è più basso, perché quello, diciamo, fino a 4-5 micron si ferma alla gola, si ferma al naso, in qualche modo, diciamo, viene riespulso dal corpo, anche se poi bisogna vedere di che cosa è composte queste polveri, perché poi ci sono quelle nocive, che ci sono anche delle componenti, diciamo, per cui sono anche tumorali, eccetera. Quindi. Poi ci sono le polveri sottili, ultra sottili, quelle sotto il 2,5, quindi dal 2,5 in giù, e quelle fanno male, perché quelle entrano proprio profondamente nei polmoni e rimangono lì, non escono più, un po' come il fumo delle sigarette. Uno, una volta che ha aspirato, se lo tiene per sempre. E così è il PM10, quindi in qualche modo fa male. Fa male, e se ne è resa conto anche le istituzioni, lo Stato, l'Europa, tant'è che hanno divulgato, emesso una legge che regola, diciamo, intanto lo scopo è quello di sensibilizzare le persone, e comunque regola in qualche modo la concentrazione di queste polveri nell'aria, la regola, diciamo, che dà delle indicazioni, perché poi in pratica questi limiti sono ampiamente dannosi e quindi sarebbe bene diminuirli ulteriormente. Diciamo, tanto per fare un esempio, che il PM10, la legge ammette una concentrazione giornaliera. Quando si parla concentrazione si parla di un peso su un metro cubo di aria. E il peso sono microgrammi, anche qui si parla di milionesimi di grammo. E sono 50 microgrammi a metro cubo. Quindi è poco, no, è abbastanza per fare dei danni alla salute. Per quanto riguarda invece il PM2,5, non c'è a livello di legge una media giornaliera da rispettare. C'è una media annuale, in tutto l'anno la legge dice non devi superare i 25 micron a metro cubo. Però se un giorno ne ho 50 e il giorno dopo ne ho 0, ho rispettato la media. Però il giorno prima mi sono ammalato. Un po' questo è il concetto. Per cui da questa legge è nata la necessità di fare delle misure. Le misure certificate, ammesse e riconosciute dagli enti statali sono solamente quelle che sono misure gravimetriche, ovvero pesano la quantità di polvere che c'è nell'aria, misurano la quantità di aria in relazione a quel peso e stabiliscono la concentrazione. Ora, questi strumenti, oltre che essere parecchio costosi, che hanno bisogno di una bilancia micrometrica, hanno bisogno di parecchia assistenza, diciamo che sono anche studiati per dare delle medie giornaliere, quindi non studiano, non danno un andamento durante la giornata di quelle che sono l'andamento della concentrazione delle polveri. Io mi aspetto che di giorno siano più alte che di notte, dove c'è più attività industriale, per esempio. E quindi comunque questi sono gli unici ad oggi tecnologie riconosciute dalla legge. Poi in realtà di tecnologie ce ne sono altre, per fortuna, stanno uscendo, e diciamo che la normativa comincia in qualche modo anche ad adattarsi a queste nuove tecnologie. Ce n'è una che utilizza i raggi beta, in quanto il pulviscolo li attenua, e quindi in base all'attenuazione si sa quanto ce n'è. Si misura anche qui la portata dello strumento di aspirazione e si stabilisce una concentrazione. Questo costa un botto, questo è uno strumento da scienziati. Noi ne utilizziamo un altro che costa poco, perché utilizza degli strumenti veramente a basso costo, strumenti elettronici, veramente poche euro, e praticamente usa la tecnica della rifrazione. Come funziona? Io sparo un raggio laser concentratissimo nel vuoto. Finché nell'aria è pulita, finché l'aria è tersa, non c'è materiale, questo raggio continua la sua strada. Nel momento in cui passa della polvere, anche basta un granello, anzi questo li conta i granelli, la luce viene rifratta, e quindi c'è un sensore di luminosità che cattura quanta luce, quanta porzione di luce viene rifratta da quell'elemento di polvere. Gli scienziati dicono che la luce rifratta è proporzionale alla grandezza del granello di polvere. Facendo l'assunzione che il granello di polvere è sferico, facendo l'assunzione che ha una certa concentrazione di massa, quindi pesa una certa quantità di osso, misurando anche qui la quantità di aria che viene aspirata, si stabilisce, contando proprio questi granelli, quanti ce n'è al di sotto di 10 micron e quanti ce n'è al di sotto di 2,5 micron. E quindi si stabilisce qual è la concentrazione di PM10 e PM2,5. Questi sensori esistono in commercio, ce ne sono di varia natura, tutti utilizzano questa tecnologia. Costano dalle 10 ai 30 a 50 euro, dipende un po' dalla cosa. Noi ne abbiamo analizzati un paio, e guarda caso abbiamo preso quello che più o meno è il più economico, però è quello che funziona meglio, questo qua. Si compra su internet, su Alibaba, su AliExpress, su Amazon, compratelo dove vi pare. Anche alla Coop tra un po' probabilmente si compra. Speriamo, perché no? Tanto hanno tolto la pasta. Piano piano magari. E quindi noi abbiamo selezionato... Tra tutti abbiamo selezionato questo qui, che è il più semplice. Come funziona? C'è una ventolina alimentata a 5 volt, c'è un punto di aspirazione e qui dentro c'è il laser che vi dicevo. Quindi praticamente l'aria entra di qui e esce di qua. Qui dentro c'è il laser che analizza l'aria. Poi c'è un'interfaccia seriale a livello, diciamo, di 5 volt. Anzi 3, 3, 3, e con questi che ogni secondo invia la concentrazione di PM10 e di PM2,5 in quel secondo lì, proprio in quell'attimo. E questo che ci fa fare in modo che noi possiamo analizzare e rappresentare, diciamo, l'andamento della concentrazione nel tempo durante la giornata. Questo è importante, perché da qui si vede e si stabilisce anche, facendo poi delle analisi, dei dati, eccetera, eccetera, mettendo più centraline, stabilisce anche chi inquina di più e chi inquina di meno. Perché io vedo a quel punto da chi viene, da dove viene la concentrazione. Però questi strumenti ad oggi non sono riconosciuti dalla legge, ma anche perché c'è un buon motivo. Non hanno ancora effettivamente un valore scientifico, proprio sul valore, perché proprio diciamo, non si riesce a stabilire una portata di aria che sia proprio costante, sempre la stessa, se il tubicino è più lungo, se è più corto, se cambia la pressione, se cambia la sporcizia, cambiano un po' di cose, quindi il valore è... Sì, e infatti ora ci arriviamo, noi facciamo proprio per questo una calibrazione di questo sensore con degli strumenti campione che sono più costosi e più precisi. Del tuo, Sì. No, perché lì c'è una, lì c'è proprio una bilancia che pesa la polvere. Non, quelli gravimetrici hanno una bilancia che pesa la quantità di polvere che è stata filtrata in un giorno. Sì, però sono strumenti che costano 10-20 mila euro. Sì, no. Cioè una stazione di misura a un comune gli costa dai 100 a 150 mila euro. Sì, perché poi viene fatta l'analisi delle polveri per sapere cosa c'è, se c'è ossido di azoto, se c'è... La normativa, se ci fate caso e andate a leggere sui siti qui dell'ARPA Toscana, ma di una qualsiasi ARPA, se ci fate caso voi non avete quasi mai il dato in tempo reale, perché il peso gravitometrico deve funzionare tutto il giorno e spesso il dato il giorno dopo viene pubblicato non prima di mezzogiorno. In alcune città viene pubblicato addirittura un paio di giorni dopo, perché non hanno i laboratori, perché formalmente quel pezzettino di filtro che viene proprio tolto. Ora molte centraline hanno una sorta di tubo automatico che ogni giorno ne infila uno nuovo, toglie il vecchio, che viene preso, viene fatta la pesata, il dato più o meno viene dato per buono, ma in laboratorio vengono fatte una serie di operazioni, tra cui per esempio operazioni di taratura, perché scoprono, sanno che quella centralina sbaglia di 10 e quindi viene corretto quel dato. E più o meno intorno alle una viene ufficializzato e validato il dato dall'ARPA regionale. In alcuni casi si parla anche di 2-3 giorni, perché le ARPA non sono attrezzate per fare questo o non hanno un interesse. Qui faccio una piccola parentesi politica. Il progetto nasce da un comitato che battagliava, come potete vedere, mamma e non inceneritore, contro la costruzione di un inceneritore. E in questa battaglia ha scoperto che in tutta questa zona di Firenze Nord, che per chi conosce Firenze si arriva praticamente a Prato, Campi, Signa, La Strassigna, tutti questi comuni, e si parla di comuni ognuno di 50.000 abitanti, Sesto Fiorentino e tutta Firenze Nord, che fa un bel pezzo dell'abitato fiorentino, non esiste nessuna centralina di qualità dell'aria, nonostante qui abbiamo un aeroporto, ne vogliono costruire uno nuovo, abbiamo due autostrade, abbiamo... tra virgolette quella che è l'industria fiorentina, cioè tutta qui, quella, il commercio, le basi logistiche di tutti i trasportatori nazionali, TNT, DHL, insomma abbiamo qui le entrate in città da chi viene da Prato, da Empoli e da altre città, quindi abbiamo una situazione ambientale pesante. Siamo andati a chiedere ad ARPA di mettere centraline e loro ci hanno detto: guardate, noi siamo uno strumento meramente politico, nel senso, noi siamo uno strumento tecnico, ma è la regione che decide, è la politica che decide se, dove e quando si mettono le centraline in qualsiasi regione, che è un po' anche la battaglia che noi diciamo: le agenzie per l'ambiente dovrebbero essere indipendenti e non assoggettate al potere politico. Quindi il sindaco può anche chiedere di mettere una centralina, fermo restando e ci deve avere 100-130 mila euro per l'installazione e 30 mila euro anno per la gestione. Se vai a chiedere queste cifre a un comune di circa 50 mila abitanti, gli hai praticamente ammazzato il bilancio comunale, perché sono cifre da capogiro per un comune di 50 mila abitanti. Quindi è la regione che decide. Tutti i comuni qua, dopo che noi abbiamo iniziato questa protesta, questa contestazione, questo progetto, hanno chiesto alla regione di installare centraline ufficiali della qualità dell'aria. Ad oggi, dopo 3 anni, non ce n'è nemmeno una. Quindi questo per dare un attimino il quadro alla cosa. Ti lascio finire. Continua, non c'è problema. No. Ritorniamo un pochino alla tecnica, allora. Comunque, effettivamente, ci voleva questa inserzione. Il controllore, quindi quello che gestisce tutto, praticamente, è una Raspberry, molti di qui la conosceranno senza nessun problema. Il sistema operativo su cui è basato il tutto è un Linux, Raspbian, è un Debian praticamente. Il tutto viene infilato dentro una scatola, stagna, e viene messo all'aria. Quindi si diceva il sistema operativo è un Linux, un Debian. All'interno praticamente c'è uno script che è poco più di un Hello World, ciclo infinito, che segue la lettura, fa la media su 2 minuti e spara il dato verso un database che raccoglie i dati di tutte le centraline in questo momento presenti in Italia. Intorno a questo script ci sono varie attività, diciamo, tra cui vari script che seguono, diciamo, a tempo determinati controlli per verificare la buona salute sia del sensore che della centralina. Ci sono degli script che si collegano e quindi operano perché la centralina possa essere, diciamo, collegarsi in VPN ad un server e quindi possa essere mantenuta, fatta ripartire se ha dei problemi, aggiornato il software e queste cose. Ha un'interfaccia web, quindi, attraverso la quale si può fare la configurazione per indicare nome, ID, collocazione geografica e collegarsi alla Wi-Fi. E un'altra pagina, che è una pagina di controllo, dove praticamente sempre da remoto si può controllare lo stato della centralina, si può far ripartire il processo, si può fare determinate operazioni. Questo è il ciclo più o meno, diciamo, l'hello world della centralina. Ecco, la VPN sostanzialmente serve, quindi la centralina è collegata in due modi: in un modo a internet, per comunicare i propri dati ad un database remoto; in un'altra maniera è collegata a una VPN attraverso la quale viene mantenuta, viene assistita. Chi ha questa centralina può, diciamo, consentire il collegamento e può richiedere assistenza se c'è bisogno. Una delle funzioni che avvengono attraverso la VPN è la calibrazione. Perché? Come si diceva, questo strumento non è preciso. Per cui tutte le centraline, una volta montate e quindi in configurazione, lunghezza tubo, alloggiamento nella scatola, eccetera, eccetera, vengono affiancate a 2 strumenti campione, che sono uno per il PM10 e uno per il PM2,5. Strumenti campione significa che hanno un grado di precisione almeno 10 volte questo qua. E generando uno spettro di valori che vanno da 0 a 300-400 microgrammi al metro cubo, sia per il PM10 che per il PM2,5, si riesce a trovare dei fattori moltiplicativi per cui il valore che fornisce questo sensore si avvicina di molto, 10% più o meno, al valore della centralina campione. Con questo noi diciamo che le nostre centraline non sono certificabili, ma sono affidabili come dato. Registrano effettivamente, cioè sapere che c'è 50 o ce n'è 55 di microgrammi varia poco. Io voglio sensibilizzare le persone che c'è dello sporco nell'aria, che c'è qualcuno che crea del particolato e quindi danneggia la salute di tutti. E questo è importante, che poi sia 50 o 55 non importa. Voglio far conoscere che questo 55 è mantenuto per tot ore, per tot giorni di continuo e quindi continui ad accumulare sporco. Quindi abbiamo creato un po' tutta questa struttura, anche piuttosto, diciamo, non complicatissima, però diciamo articolata, che ci consente di assistere queste centraline e quindi poter stabilire, anche di fronte a una discussione, che il valore che queste centraline emettono è un valore, diciamo, significativo, ecco, è un valore significativo. Tant'è che poi faremo una passeggiata e andremo a vedere la stanza di calibrazione, che è qui al Ernest Emerson. Perché? Perché c'è una certa attività di pizze, di balli, di tutto, che generano un po' di polvere e lì ci danno tutti i valori necessari a ottenere una retta di calibrazione affidabile. La calibrazione poi è uno strumento che è insito all'interno del software della centralina. Non è un qualcosa che viene fatto dall'esterno, che viene elaborato come dato all'arrivo, diciamo, sul sito remoto. Il dato viene elaborato all'interno della centralina. Perché? Perché quella centralina, in quella configurazione, con quella ventolina che gira in quella maniera, alimentata in quel modo, che genera quei valori. E quindi vanno corretti una per una secondo i valori opportuni. Per cui abbiamo sviluppato un software che permette alla centralina di collegarsi alla centralina campione, scaricare i dati della centralina campione fino a 10 giorni, confrontarli con i propri, fare l'analisi e, per chi recepisce l'informazione, creare la retta di regressione che consente poi di calcolare i valori di correzione del dato. Quindi diciamo che la cosa è abbastanza, è scientifica. E diciamo che la statistica sostiene questo tipo di misure, nelle misure si fa così. Di centraline ne abbiamo installate parecchie, ce le stanno chiedendo, forse lì non si vedono, ci sono una trentina in Toscana, forse anche di più, ce ne sono 15-20 in Veneto, ce ne sono 4-5 a Genova, in Liguria, ce ne sono qualcuna, due a Ascoli Piceno mi sembra, una, due in Emilia Romagna, insomma si sta espandendo, le persone cominciano a chiederle, si aprirà, non c'è ancora, ma si aprirà in Lombardia e quindi noi continuiamo a costruirle, continuiamo a tararle e speriamo che la gente, le persone si sensibilizzino su questo problema e si incazzino alla fine perché si ammalano. Ecco, questo è un po' l'obiettivo finale, tirando le somme, la gente si deve arrabbiare. Deve arrabbiare perché ci stanno ammalando. Io con questo direi che di più non saprei raccontarvi. L'abbiamo fatto, il progetto c'è, esiste, il progetto della centralina lo potete trovare su GitHub, cercate centralina PM e uscirà fuori tutta il software, tutte le procedure, il modo di installarlo. Se non avete bisogno di qualcosa, c'è anche l'email, scrivete e qualcuno vi risponderà. Prego. Lui per primo. Alzate. Coincidere sul trasferimento della, in genere vengono tagliati più tutti alla stessa misura, millimetro di spinta. Quindi diciamo la spedizione viene in modo tutto intero. Allora, è un progetto, noi lo diciamo sempre, poi abbiamo scoperto dopo che si dice di citizen science, non sapevamo esisteva questa parola e questo tipo di progettualità. È un progetto aperto, ovviamente. L'abbiamo sempre detto, noi è una sfida, nel senso è un laboratorio creativo, è aperto il progetto, è aperto il codice. Noi siamo iniziati in un modo e tanti di noi non avevano nemmeno idea di tutto il mondo, che vuol dire aria. Cioè, se oggi io, Salvatore o Enrico arriviamo a dire delle cose da cittadini, è perché grazie alla collaborazione anche di diversi scienziati, professori, tecnici, chimici, ambientali, c'è stata davvero una convergenza, un mix di posizioni, per cui gli scienziati partivano: no, questa cosa non si può fare, noi no, bisogna misurare tutto. Ovviamente non poteva fare né l'uno né l'altro, abbiamo trovato una via di mezzo, però questa cosa è stata molto interessante, ci ha permesso, mi diceva Salvatore, di arrivare a dare un primo livello di qualità, nel senso che il livello che abbiamo voluto aggiungere a questo sensore è questa calibrazione. Cioè, il sensore ci siamo accorti che è buono, ma quando ne mettiamo 40 in parallelo, ognuno si comporta, parte con uno zero diverso, poi si comporta uguale, però lo zero di partenza è diverso. Siccome ovviamente il nostro è a battuta, diciamo, un po' un hacking ambientale, no? Andiamo ad hackerare l'inquinamento, cioè scopriamo che cosa c'è nell'aria, spesso chi sposa e adotta il nostro progetto sono anche realtà che in qualche modo poi questo dato vanno anche a usarlo. Non è il singolo cittadino che è più o meno bravo tecnicamente a montare un sensore, un software, a metterlo su, ma c'è magari dietro una realtà sociale che poi questi dati li usa, e quindi abbiamo ritenuto importante dare sensori con un livello uguale, in maniera tale che, insomma, è anche facile per noi capire se uno non sta funzionando. In tutto questo livello di sperimentazione, per cui non nasciamo imparati e stiamo imparando cose e stiamo crescendo grazie al contributo di tanti che arrivano e aggiungono pezzi, è già stato uno sforzo enorme riuscire a costruire una stanza di taratura. Lo dico perché anche per noi sembrava facile: ok, si compra uno strumento professionale che costa 3.000 euro, al momento ce ne abbiamo due, uno che fa il PM2.5 e uno il PM10, si mettono le centraline e via, però ovviamente, e poi c'hai problemi di blackout, c'hai problemi che non ti funzionano, sono tutta una serie di problemi che siamo tutti volontari, insomma, attivisti e quindi, diciamo, è molto difficile ripliare questa cosa, ce l'hanno chiesto, a parte c'è un problema economico, nel senso che se non hai una stanza, non hai queste due centraline da 6.000 euro, parti con un'analisi di terzo o quarto livello che può portare degli errori scientifici, però se c'è la volontà di un nodo locale si può replicare, insomma, bisogna fare esperimenti, provare, ok, le mettiamo qui, proviamo a fare da un'altra parte, le riportiamo indietro, vediamo se è giusto il lavoro che abbiamo fatto e si può provare a... perché è un lavoro che sostanzialmente non ha fatto... a questo livello di open, quindi dove tutto è pubblicato e documentato eccetera, non l'ha fatto quasi nessuno. Cioè, tutti poi arrivano a un certo livello e o diventa un progetto aziendale, e quindi per esempio ora troverete che tipo a Torino le stanno montando dentro le panchine per l'aria, dentro le antenne per il wifi eccetera, però poi di come quel dato è generato, il livello di scientificità che ha quel dato, il sensore che è, non se ne sa niente, quindi lo pigli, ti fidi, è bella lì, però come abbiamo visto anche noi i sensori non sono tutti uguali, quindi poi rischi anche di lanciare un allarme che anche noi si è rischiato. Per esempio, si racconta sempre una battuta: le centraline abbiamo messe in Veneto, appena mandate, dopo due settimane, mi sembra intorno ai 4 gennaio, no? Si inizia a vedere parte 1 a 150, quindi chiamo Salvatore e faccio: ma mi sa che una si è mandata male, si è sbagliata. Arriva un'altra 100, un'altra 120, esatto, porca miseria, che succede? Eppure lei è anche festa. A un certo punto ci scrive un veneto in Veneto, e non lo so dire io in Veneto, e sta a Brusala Vecia. E noi che? E praticamente è una tradizione che loro hanno, che noi non sapevamo, per cui bruciano, sì, purtroppo è diventata di moda e ora bruciano la qualcosa, cioè se un prima c'era un controllo sul legno che bruciavano, eccetera, eccetera, e quindi tutte le centraline hanno iniziato a raggiungere picchi mastodontici, ma anche 300-400 in poche ore, che è tutta roba che la gente si respirava mentre faceva le foto, che bello, brucia la vecchia, eccetera, eccetera. Quindi questo per dire che noi siamo sempre lì a cercare di capire, poi si impara anche dagli errori. Volevo dire solo una cosa, se hai avuto la fortuna di poter intraprendere questo progetto, perché sintonizzandosi con il movimento Mamme No Inceneritore, a un certo punto è partito un crowdfunding E le mamme non genitori a Firenze hanno fatto, per dire, un paio d'anni fa un corteo con 20.000 persone reali, e il crowdfunding fortunatamente è stato anch'esso significativo e sono arrivati a 16.500 euro, no? Perché sennò il materiale, i soldi, le centraline, dice, ma questi non è che ci sta finanziamenti occulti. E siamo andati sull'onda di un moto popolare che è stato molto partecipato anche a livello crowdfunding. Poi bisogna vedere finché dura, insomma, tutto ciò, non si dovrà mettere in piedi un altro crowdfunding e via dicendo. E mi sembra importante. No, no, certo, anzi, questo per dire che scrivete, poi c'è, cioè, qualcuno si arrabbia perché magari non si risponde entro 4 ore o entro 2 giorni, però siamo noi, altri che oggi non sono potuti venire, siamo una quindicina di persone attivi, però io ho 2 figlioli, ognuno ha cazzi suoi, quindi può succedere magari... Però quello per dire, il progetto è aperto davvero, noi infatti cioè, lanciamo sempre... Vai, vai! Secondo me hai fatto un grandissimo lavoro che non ha fatto nessuno in questo ambito, nella raccolta di... Secondo me per chiedere la costa tanto, la consuma corrente, parecchio corrente, ha bisogno di una connessione permanente, ha bisogno di cavi... Sì, sì. Abbiamo fatto delle centraline, sempre open source, basate su... Tanto ti rispondo alla prima, perché già era... se poi la seconda non mi ricordo più nulla. Allora, in teoria ti rispondo sì a tutto, nel senso che noi abbiamo fatto anche una versione con... Allora, il progetto partiva... partiva con un crowdfunding, quindi noi avevamo quel budget e avevamo promesso delle cose a chi ci aveva dato i soldi. E partiva per essere una cosa prettamente locale, cioè noi non sapevamo poi quanto ci sarebbe venuto a costare effettivamente una centralina, perché buona parte di quel crowdfunding è stato speso per testare tutto quello che si è raccontato prima, per arrivare a capire che questo sensore è buono e fare l'architettura. Abbiamo fatto anche una versione Arduino, per dire, per risparmiare meno con altre cose. Avevamo dei problemi che ci rallentavano molto, perché per esempio quando il wifi saltava perdeva i dati, invece con Raspberry riuscivamo a... Ma questo è un problema che noi programmatori, per questo diciamo è aperto, nel senso, se poi c'è qualcuno e ne sa di più, viene, ci dà una mano, ben venga. Io... Sì, sì, è tutto aperto, poi siamo fricchettoni e non lo linkiamo dalla pagina. No, nemmeno la licenza gli abbiamo dato, perché proprio è, nemmeno... lo so, perché, bravo. Sì, bravo. No, se mi dai una mano, si fa. A volte, vieni, mi dai una mano e si fa. Sono perfettamente d'accordo, per solo che ti do solo un'idea, no? Siccome abbiamo una svalangata di richieste di comitati, eccetera, noi abbiamo passato gli ultimi 6 mesi. Tutto. No, è perché ce lo devi chiedere, ma ti diciamo dov'è, però non c'è scritto sul sito, forse, mi sembra. Bene. No, ma poi tra l'altro, insomma, un po' di licenze le avevo mangiate a suo tempo, anche un po' di battaglie. No, ma per quello noi lanciamo sempre una sfida: dateci una mano, cioè per mantenere un progetto così complesso. Cioè, la sfida nostra è stata, anche rispetto all'Ufdaten e altri, un grosso ragionamento è stato: ok, io ho i dati, riesco a fare uno strumento che comunque, a prescindere dal costo, è accessibile, nel senso che massimo arrivi a qualche centinaia d'euro rispetto ai migliaia di euro, hai tutta un'infrastruttura sviluppata da attivisti, disponibile, libera, però questo ovviamente sta in piedi perché c'è ora al momento 20 persone che ci mettono tantissimo tempo loro dedicato e non riescono a stare dietro a tutte le necessità. Cioè ora stiamo più dietro a attivare nodi perché la gente vuole misurare l'aria e quindi a costruire quello che faremo dopo, molto spesso siamo noi a farle. Sì, lì c'è... Diciamo che il dato vorremmo farlo uscire pulito dalla centralina, no? Perché lo puoi fare... Sì, sì. Perché quello strumento può stare anche offline, nel senso può misurare, non avere nessuna connessione al server e poi dati possono essere scaricati o essere inviati dopo. Quindi il fatto che è tutto là sopra è un livello di, poi nel senso non c'è scritto niente da questa parte, noi abbiamo cercato di attenerci a quello che più o meno è l'ambiente normativo e tecnico in cui ci si muove, considerando che ovviamente noi sappiamo e stiamo facendo una cosa su cui verremo attaccati e smentiti ovviamente da qualsiasi tipo di istituzione tecnico-scientifica, anche se in realtà devo dire che in Toscana e non solo non ce lo aspettavamo, abbiamo ricevuto dei complimenti anche dall'ARPAT, anche dall'università, quindi in realtà una certa conferma del lavoro scientifico sempre nell'ambito sperimentale è stato dato. Quindi sicuramente licenze facciamole, darci una mano, perché semplicemente io alle 10 di sera ho lui e ci si mette lì e magari svalvolo e non si fa. Per dire, in Toscana dopo questa esperienza il CNR, l'IBIMET e tutta una serie di istituzioni stanno lanciando progetti simili, che già è una vittoria, perché comunque vuol dire che a livello culturale te hai sfondato qualcosa che 4 anni fa, quando noi si diceva di installare delle centraline qua, tutti ci pigliavano per grulli, ci dicevano ma che dite, a Peretola si sta benissimo, c'è la migliore situazione, perché la centralina che è a Signa a x chilometri là in mezzo ai verde segna che è buono, quindi con lo spazio, se io la sposto faccio un calcolo matematico più o meno è uguale, perché questo fanno le ARPA. E invece il CNR e l'IBIMET stanno partendo con progetti simili che usano lo stesso sensore alla fine dei conti. Il cuore della nostra battaglia non è diventare l'ARPAT alternativa, perché cioè, vorrebbe dire suicidarsi a livello umano, ma aumentare, cioè devono essere i nodi a crescere e portare valore aggiunto. Per esempio a Firenze abbiamo un livello di inquinamento che è diverso da Venezia o da Genova, quindi quando abbiamo aperto i nodi in queste situazioni qua abbiamo dovuto affrontare anche delle tematiche che qui non troveremo mai nell'ambiente, quindi semplicemente non possiamo dire di aver fatto per la sperimentazione lì. Quindi per esempio nel nord Italia c'è molta nebbia e quindi la nebbia sicuramente incide sul sensore in un certo modo, e anche questa è tutta roba che stiamo scoprendo con dei tecnici, non esiste documentata, quindi è tutta una ricerca in divenire. Io volevo capire il dato politico, cioè nel senso, visto che avete fatto questa stanzetta con i due server, tutta sta roba, la campagna, il crowdfunding, eccetera, eccetera, sta roba si sta diffondendo così, io volevo fare una domanda, cioè un po' tipo taglio la testa al toro, con tutti questi dati che ci facciamo, cioè nel senso possiamo implementare il livello del conflitto ambientalista, ec verde, non lo so, nel senso che ci facciamo con tutta sta manna di dati, metadati, li mettiamo in circolo, bla, non lo so, cioè volevo capire se stavate pensando, se state già facendo qualcosa con tutto questo andamento, come vi comportate nelle situazioni straordinarie da 150 o come, cioè, uno come libero cittadino può fare qualcosa nel caso che voi mandate una comunicazione del genere, cioè che conseguenze politiche di movimento ha questa roba qua? Ma il ritorno politico più evidente che si è avuto a questi 2 anni e poco più di attività è quello legato al rapporto con i comitati locali, e quindi il fatto di poter supportare dei comitati locali e dare loro uno strumento per monitorare la qualità dell'aria, e lì poi è stato utilizzato appunto localmente per uscire sui giornali, per fare pressioni sulle amministrazioni locali. Il grosso è stato quello, penso al comitato di Signa, che è una cittadina qui vicina, che c'è il problema della via Roma che è nera dallo smog, penso a Genova che hanno adottato da poco le centraline per discorso di ponte, di cantiere, Venezia, perché c'è una situazione locale molto, molto impegnativa. E poi è un discorso anche di divulgazione, nel senso che poi utilizzando le centraline anche dal punto di vista dei cittadini singoli o dei comitati si impara anche delle cose interessanti, tipo che l'inquinamento c'è sempre, si può dire, però è molto legato al clima, per cui d'inverno o quando c'è la nebbia c'è tutto un altro rilevamento che non d'estate quando tira vento, perché quando tira vento le polveri vengono disperse, quando c'è la nebbia e poi il fenomeno dell'inversione termica vengono trattenute in aria, e quindi si impara anche questo tipo di cose. Diciamo che non è che si è progettato politicamente un granché, nel senso che non ci sa anche tanto l'energia per farlo, diciamo che gli effetti pratici si sono visti in questi pochi anni di attività sono stati quelli di supporto ai comitati locali e di presa di coscienza rispetto alle questioni inquinamento. Dipende dalle condizioni climatiche, però non è che le centraline, per quello che si è potuto vedere, anche collaborando con una serie di tecnici esperti in settore, che fra l'altro alcuni non sono presenti qui oggi, però lavorano da anni su queste tematiche, non è che le centraline stanno dando dei risultati sballati a seconda delle condizioni climatiche. Sì. Allora, noi eravamo partiti con quel budget lì, no? Quindi non ce lo potevamo permettere, nel senso già arrivare a trovare il sensore di PM2.5 e PM10 fosse buono è già stato difficile. Ora, siccome il progetto si sta evolvendo e quindi chiediamo delle donazioni eccetera, stiamo facendo questa cosa WIP. L'idea è quella, cioè stiamo già pensando a renderla non aperta, non nel senso di aperta, ma più facile poi da aggiungere entità esterne che possono misurare la qualcosa, quindi può essere l'umidità, una cosa che vorremmo misurare tantissimo è la CO2 e l'NO2, però è in OX, però non si sta trovando nessun sensore che possa durare almeno un paio d'anni che tiri fuori dei dati attendibili a cifre accettabili, nel senso se poi lo devo proporre a un cittadino o a un comitato, certo se compro un sensore da 3.000 euro forse è affidabile, ma anche lì non ci scommetterei sopra. Devo trovare un sensore che costa poco e questo non lo stiamo trovando, però anche questo vuol dire che comunque ne dobbiamo sì, si può fare, quindi diciamo sempre se c'è un gruppo, una serie di persone o anche un singolo che ha conoscenze innanzitutto su quella tematica lì e quindi ha sia la conoscenza tecnica, scientifica che pratica, ci mettiamo lì e si fa le prove, poi si fa le prove tecniche e si cerca anche di dargli un background scientifico di appoggio a quella cosa lì, se ci si fa, se non ci si fa vuol dire che non ci sarà quell'aspetto lì, però l'idea è quella lì, sì, anche la risposta di prima sulla mappa è sì, in realtà avevamo iniziato a sviluppare quello, ci eravamo collegati a opensensemap.org per esempio, su cui vanno già molte roof data, ci siamo incartati perché dobbiamo a livello, il programmatore ora deve fare una modifica per definire quelle tarate e quelle non tarate, quindi dobbiamo capire noi a livello mappale, siccome inizia a avere tanti comuni che sono tutte tarate, bisogna capire noi come far capire questa cosa, è proprio una cosa che in realtà basterebbe mettersi 2 giorni lì a programmare e ci si arriverà, se ci sono idee proposte noi le prendiamo e le accettiamo, perché a volte magari è una cavolata e non la vedi. E stai a Firenze? Vuoi fare ingelosire, insomma? Ci stai dicendo che da te si sta bene e qui si sta da schifo. No, se sono tutti i ragionamenti che stiamo cercando di fare, per esempio stiamo sviluppando una app, tanti aspetti, però ovviamente si aggiungono sempre, no? Più la cosa funziona, quindi siamo partiti dall'idea che per esempio questa tecnologia che già può essere sostituita con altri controller era una scelta fatta apposta, che era tutta roba facilmente trovabile, no? E facilmente adattabile dalla persona, no? Perché l'idea era ce la deve fare anche ma ora che sappiamo che funziona, cioè possiamo fase 2 metterci lì e studiare alternative. Cioè l'obiettivo primo era arrivare a costruire un aggeggio che fosse affidabile, che potesse dare delle risposte, fare l'infrastruttura server, l'infrastruttura di comunicazione, scoprire anche tutta una serie di cose di come vanno mandati i dati, come recuperarli, fare tutto un lavoro che può sembrare una cavolata, però quando la dai a una persona non tecnica, c'ha un aggeggio e si deve collegare a internet, quindi anche lì tutte. E però sembra una cavolata, però poi alla fine se quella persona te la prende, ha fatto lo sforzo e poi non gli funziona, te gliela devi far funzionare in una qualche maniera, no? Poi magari ora viene una settimana a Firenze e ti si ospita, La sfida è lanciata, quindi noi ci siamo da quel punto di vista. No, per noi c'è, non l'abbiamo scritto perché pian piano stiamo scrivendo le FAQ, per noi era talmente open che è lì, pigliatevele e scaricate. Però c'hai ragione, è vero, è una cosa formale, non si è fatta e bisogna fare. Allora loro due vi portano a fare questa passeggiatina, che è andata a vedere la stanza di taratura, che è stata anche appena ripitturata, quindi fate un applauso agli imbianchini che hanno lavorato per questo. E io resto qui, se avete domande nel frattempo che tornano ci sono. Yeah.